GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bandiere esposte a mezz'asta domani sui palazzi delle istituzioni per il giorno della memoria. Per il presidente del Consiglio regionale Bordin, i rigurgiti antisemiti sono un motivo in più per tenere alta la guardia contro ogni manifestazione di odio e intolleranza. Niente proroghe per il bonus 110, i noleggi dei ponteggi stanno già rallentando, i costruttori calteggiano almeno un bonus ridotto e lo sconto in fattura. I soldi per sostenere l'accoglienza dei profughi arrivano dallo Stato con grave ritardo. La Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Rovatin vanta un credito ormai di 140.000 euro, l'ICS di più di 1,5 milioni, e si pone il problema della liquidità. Beppe Severnini dall'Università di Trieste invita gli studenti a uscire dal proprio recinto e conoscere il mondo con i programmi Erasmus. Il turista che arriva in Friuli Venezia Giulia ha tra i 27 e i 57 anni e spende mediamente sui 92 euro al giorno. A disegnare questo identikit, un'indagine della Camera di Commercio di Pordenone. Buongiorno da Daniele Lettig e Nada Ciocchi. Iniziamo dal super bonus perché non ci saranno proroghe. Il governo ha bocciato la proposta di concedere 2 mesi in più a chi ha realizzato almeno il 70% dell'intervento di riqualificazione dell'edificio. E gli emendamenti che chiedevano di dare più tempo ai condomini per completare i lavori, fruendo ancora delle percentuali del 110 o del 90%, sono stati ritirati. Per molti si pone ora il problema di come far fronte agli investimenti già aperti. Il servizio. Bocciando tutti gli emendamenti al decreto di fine 2023 sul superbonus, il governo ha messo una pietra tombale a ogni ipotesi proroga o riapertura dei termini del 110%. Oggi è del 70% con una sanatoria per i lavori non completati entro lo scorso 31 dicembre. L'epoca del superbonus ha coinvolto circa 13.000 edifici in regione, di questi quasi 2.000 condomini, per oltre 2 miliardi di euro di lavori conclusi ammessi a detrazione. Ultimamente è più facile trovare idraulici, elettricisti e impiantisti che in passato, indica Piero Petrucco, vicepresidente nazionale dell'Associazione Costruttori Edili, ANCE. Ma la fine del 110% non ha inciso sui prezzi dei materiali. Ferro, calcestruzzo e cemento seguono infatti dinamiche internazionali. Va normalizzandosi invece il nolo dei ponteggi. La legge dei ponteggi è invece, a seguito dell'esaurimento del il lavoro super bonus, sta cominciando a registrare una flessione. Dopo un 2023 chiuso comunque positivamente per la categoria, secondo Marco Bertuzzo, presidente di ANCE FVG, nel 2024-2025 assisteremo sì ad un deciso calo delle riqualificazioni energetiche private, compensato però dal decollo dei lavori, per lo più pubblici, legati al PNRR. Per il futuro, ANCE chiede di continuare sulla strada delle agevolazioni fiscali strutturali per la rivalutazione del patrimonio edilizio, ma soprattutto per chi ha redditi medio e bassi. Pensiamo che sia fondamentale mantenere lo strumento dello sconto in fattura, mentre è assolutamente condivisibile ridurre l'intensità, quindi molto meglio avere una riduzione, un bonus del 60-70% con lo sconto in fattura piuttosto che un bonus di dimensioni maggiori ma senza. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Donne e bambini ucraini costretti a fuggire dalla guerra sono ormai da 2 anni ospiti di molte strutture di accoglienza in Italia. Un gruppo ha trovato accoglienza anche nelle strutture della Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Crovatin di Trieste, che vanta ormai più di 140.000 euro di crediti nei confronti dello Stato, ma non è l'unica organizzazione con problemi di liquidità a causa della lentezza dei pagamenti. 32 ospiti tra mamme e bimbi vivono nelle case della Fondazione Lucchetta Otta d'Angelo Rovatin di Trieste. Sono rifugiati ucraini scappati dagli ospedali bombardati e ora in carico al Burlo. La loro accoglienza è resa possibile grazie a dei finanziamenti pubblici che lo Stato deve garantire, ma che, dice la Fondazione, arrivano con enorme ritardo. Vantiamo crediti dalla pubblica amministrazione davvero significativi, dice Gianfranco De Pinguente della Fondazione. 140.000 euro per noi, una cifra enorme. Secondo la prefettura di Trieste, da noi contattata, gli importi a credito sarebbero molto inferiori. Non vogliono dare la cifra, ma dicono, a fronte delle fatture presentate, sono stati corrisposti anticipi per l'80%. Eppure questa denuncia della fondazione non sembra un caso isolato, anzi ICS, per esempio, con 800 persone in carico tra rifugiati ucraini, vanta un credito di 1.532.000 euro. L'ultimo saldo risale a marzo 2022, 2 anni fa. Ad arrivare nel frattempo sono stati anticipi, ma l'erogazione del servizio, dice Gianfranco Schiavone, sta diventando insostenibile. Caritas, come noto, per mesi non ha potuto pagare gli stipendi dei dipendenti. A Udine la cooperativa Oikos, che si occupa di accogliere circa 160 persone tra minori stranieri non accompagnati, migranti adulti e ucraini, vanta un credito di 250.000 euro. Al momento non hanno carenza di liquidità, spiega il direttore Giovanni Tonutti, ma in passato è successo più volte: dobbiamo sempre pagare affitti degli appartamenti dove queste persone vengono accolte e anche naturalmente gli stipendi. Ma allora come stanno in piedi queste strutture, ci chiediamo? Grazie alle banche, dice Giovanni Tonutti, che concedono prestiti sì, ma con degli interessi, e gli interessi sono a carico nostro. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La sicurezza sul lavoro, in particolare la medicina che si occupa della prevenzione sui posti di lavoro, è istituzionalizzata da 50 anni a Trieste. Se ne discute in un convegno promosso dalla CGIL nella sala di Autovie Venete con Michele Piga, neoeletto segretario regionale del sindacato, e l'ingegnere Umberto Laureni. Nel pomeriggio interverranno anche relatori dell'INPS, dell'INAIL, della SUGI e delle istituzioni. E sulla prevenzione si discute anche a Pordenone, nella sede di Confindustria Alto Adriatico, alle ore 15. I relatori Carlo Bisio, psicologo del lavoro, Andrea Mariuz, sociologo, e Antonio Lazzaro, presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, si confronteranno in particolare sull'analisi degli infortuni con modelli di causalità non lineare. In questa intervista Bisio ci spiega che cosa sono questi modelli. Siamo abituati spesso a pensare che ci siano delle relazioni causa-effetto piuttosto semplici, piuttosto lineari, no? Una cosa accade e ne causa un'altra, e sugli infortuni spesso si ragiona in questo modo. L'esperienza e poi insomma il progresso, anche la riflessione su queste cose, hanno dimostrato come la causalità a volte sia molto complessa e che la causalità non sia poi così semplice, non sia lineare, ma c'è una complessità dietro, per cui occorre tenere conto di questa complessità, che riguarda per esempio il fattore umano, riguarda il fatto che le cause spesso tra di loro interagiscono. Se continuiamo a ragionare in maniera semplice dietro a degli aspetti complessi, rischiamo di non avere delle reali azioni di miglioramento che possano migliorare la sicurezza. Nelle imprese c'è sensibilità riguardo all'adozione di questi modelli? Sono più sensibili le aziende con alti rischi, quindi se andiamo nelle aziende chimiche, nelle aziende di trasporto come il ferroviario, eccetera, c'è una maggior sensibilità e anche una maggior capacità, diciamo, di dotarsi di strumenti. Molto più spesso nelle aziende, diciamo, che non rientrano in queste categorie ad alto rischio, si tende qualche volta addirittura, quello che vedo, a banalizzare, cercando di trovare delle causalità semplici, rinforzando quella che poi è quello che chiamiamo una sicurezza apparente, cioè ci sembra di aver trovato delle soluzioni, in realtà non sono delle soluzioni. E dal punto di vista legislativo o comunque degli organi politici di indirizzo c'è attenzione a questo tema? A livello anche di normative europee c'è una certa attenzione, specialmente appunto sugli impianti e sulle aziende, sulle strutture che sono ad alto rischio. Però ricordiamoci che moltissimi morti sul lavoro non appartengono, diciamo, ad aziende e a processi ad alto rischio. Bandiere esposte a mezz'asta all'esterno del Palazzo del Consiglio regionale di Piazza Oberdan, e la novità che caratterizza la celebrazione di quest'anno del Giorno della Memoria. Su richiesta del prefetto di Trieste, domani i vessilli ammainati dell'Italia, della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia e dell'Unione Europea simboleggeranno l'importanza della giornata mondiale che rende onore alle vittime della follia nazista. Il 27 gennaio, commenta il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, è ormai una data entrata nel cuore della gente che aspetta questa giornata per riflettere sulla più grande tragedia collettiva del Novecento. La celebrazione di quest'anno, conclude Bordin, coincide con una nuova esplosione di violenza in Medio Oriente e con preoccupanti rigurgiti di antisemitismo in molti paesi. Un motivo in più per ricordare quanto successe e tenere alta la guardia su ogni manifestazione di odio e intolleranza. Il giorno della memoria verrà ricordato nell'aula del Consiglio regionale in apertura della seduta di mercoledì 31 gennaio. Il giorno della memoria si celebra il 27 gennaio nell'anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista Auschwitz da parte dell'Armata Rossa, ma quest'anno cade di sabato. Per poter consentire alla comunità ebraica di partecipare alla cerimonia commemorativa, l'evento organizzato dal Comune di Trieste è stato posticipato a domenica. Eva Ciuca ha visitato la risiera di San Sabba con lo storico e presidente dell'Istituto regionale per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Tristano Matta. Questo luogo funzionava sia come luogo di detenzione temporanea per coloro i quali dovevano essere deportati partendo dalla stazione di Trieste verso Auschwitz o verso altri campi di concentramento come Dachau, Mauthausen soprattutto, ma anche come acquartieramento di un reparto di SS Wachtmannschaft che era operativo e usciva dalla risiera per partecipare ai rastrellamenti, e quindi una parte rilevante delle vittime che hanno perso la vita qui e che i cui corpi sono stati bruciati nel forno crematorio era il risultato di queste attività di rastrellamento condotte soprattutto nell'area dell'Istria settentrionale, nell'area dei Colli Birchini, da cui difatti risultano provenire molte delle vittime che qui sono state uccise. Il giorno della memoria rappresenta uno dei momenti culminanti della vita della risiera di San Sabba come luogo della memoria. La cerimonia si svolgerà domenica con inizio alle 11. Quest'anno è stato deciso di limitare la partecipazione del pubblico a 2.200 persone. Anna Krekic, curatrice del Museo Risiera San Sabba. Gli eventi culturali quest'anno si svolgeranno nella sede museale del Museo Revoltella, nell'auditorium Marco Sofianopulo. Lunedì 29 gennaio alle ore 20:30 si terrà la proiezione del film Le Résistance du Train Fantôme, sempre appunto al Museo Revoltella, la presentazione del catalogo della mostra 7 dicembre 1940 destinazione Lager, inaugurata in occasione dell'80° anniversario della partenza dalla stazione centrale di Trieste del primo convoglio di deportati razziali da questa città. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora siamo al meteo, il cielo è sereno su gran parte della regione, le temperature registrate poco fa: Trieste 9,5 gradi, Udine 11, Gorizia 10, Pordenone 8, a Forni di Sopra 8,5 gradi, a Piancavallo 7, Tolmezzo 6,5 gradi, Tarvisio 4, Sappada 3, sullo Zonco Lanci sono 5 gradi, sull'Ussari 4,5 gradi, a Grado 8,5 gradi, a Lignano 8 gradi. E ora sentiamo quali sono le previsioni per il fine settimana e le tendenze per l'inizio della prossima con il previsore dell'Osmer, Gabriele Fasano. Nel fine settimana il tempo sulla regione sarà stabile, con cielo che si presenterà sereno, del tutto sereno, sia sabato sia domenica. Nella mattinata, nelle ore più fredde, diciamo, soprattutto di sabato, sarà comunque possibile qualche foschia, qualche banco di nebbia sulla bassa pianura, specialmente verso il Veneto. E le temperature invece in giornata, le massime, raggiungeranno valori piuttosto miti per questa stagione, anche sui 14, forse 15 gradi, appunto sia sabato sia domenica. Le temperature in quota saranno piuttosto alte, nella giornata di sabato avremo lo zero termico attorno a 1700-2000 metri, dal pomeriggio di domenica lo zero termico salirà ulteriormente fino a quasi 3000 metri. Anche l'inizio della settimana si preannuncia stabile, con il dominio ancora dell'anticiclone che persisterà per qualche giorno, e quindi con cielo sereno, poco nuvoloso, tempo stabile, appunto, senza precipitazioni né altri fenomeni di rilievo. Il giornalista Beppe Severnini invita gli studenti dell'Università di Trieste, ma anche i giovani, a viaggiare e a conoscere il mondo, cogliendo l'opportunità del progetto Erasmus. 5 buoni motivi per non restare a casa, ma forse ne basta uno: uscire dal proprio recinto e immergersi in un'altra cultura. L'Università di Trieste ha organizzato l'International Day dedicato agli studenti interessati a vivere un'esperienza Erasmus all'estero, esperienza su cui l'Ateneo investe, grazie all'Agenzia Nazionale Indire, il 63% in più rispetto al 2022. Ospite d'eccezione il giornalista e scrittore Beppe Severgnini, da sempre grande sostenitore dell'Erasmus. Dobbiamo essere noi bravi, noi italiani, soprattutto gli italiani con i capelli bianchi, gli italiani delle generazioni dei papà o dei nonni, a creare un ambiente in cui i ragazzi sono felici di tornare. Perché l'idea di Erasmus, l'idea del... è sempre partire per tornare e poi per ripartire. E se qualcuno vuol rimanere fuori, va bene comunque, perché ci saranno ragazzi stranieri che vorranno rimanere in Italia. Andar via ti ispira, ti entusiasma, ti sveglia e ti sfida. Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Belgio, Danimarca, le mete preferite dagli studenti. Io ho fatto l'Erasmus a Liege in Belgio e mi ha arricchito molto perché mi sono trovato di fronte a una cultura molto diversa, ma anche con delle similitudini rispetto alla nostra, e ho cercato di portare avanti gli stessi interessi che avevo qui in Italia in un ambito completamente diverso dal solito. Sicuramente fare un'esperienza all'estero è veramente importante, arricchisce tantissimo. Per cui se ne avete la possibilità, se si vi va, se siete intraprendenti, avete voglia di esplorare il mondo, approfittate di questa esperienza, fatela e magari, chissà, potreste tornarci in futuro. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR, Friuli Venezia Giulia. I turisti che arrivano in Friuli Venezia Giulia promuovono la regione, la visitano soprattutto per il patrimonio artistico e il turismo balneare, appartengono principalmente alle generazioni X e Y, nati quindi all'incirca fra il 1965 e il 1995, e spendono in media 92 euro al giorno, oltre alle spese di viaggio e alloggio. L'istantanea sui visitatori dell'estate 2023 arriva dalla Camera di Commercio Pordenone Udine e da ISNART. La rilevazione avviene attraverso un'indagine su 1750 interviste ai turisti. I turisti italiani che hanno visitato il Friuli Venezia Giulia sono risultati per il 35% tra i 42 e i 57 anni, gli stranieri sono invece per metà più giovani. Il 47% del totale dei turisti arrivati in Friuli Venezia Giulia è una coppia senza bambini. I turisti italiani in visita nella nostra regione provengono principalmente dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna. Le principali motivazioni di soggiorno sono il patrimonio artistico, il turismo balneare e gli interessi enogastronomici per il 22,6%. Gli italiani apprezzano anche il rapporto qualità-prezzo. La maggior parte dei turisti trascorre dai 7 ai 13 giorni in regione. Sulla cabinovia del Canin, che sale sul versante sloveno del monte da Bovec ed è ferma, il presidente della Confederazione delle Organizzazioni Slovene, Walter Bandel, ha inviato una lettera al primo ministro sloveno, Robert Golob, in cui esprime la propria sorpresa in merito alla decisione del governo sloveno di non sostenere il progetto di riavvio della cabinovia. Un'infrastruttura, scrive Bandel, che rappresenta un ponte con il vicino centro sciistico italiano di Sellanevea, e la sua chiusura impedisce agli sciatori provenienti dal versante italiano di utilizzare l'impianto sciistico sul versante sloveno del Canin. Sorge dunque spontanea la domanda se esistano ragioni valide e specifiche per cui il governo della Repubblica Slovena abbia deciso di non sostenere il progetto, e chiude la sua lettera Walter Bandel. Bandel ha parlato di questo problema anche in una riunione della Camera di Stato slovena che si è svolta il 23 gennaio a Lubiana. E con questa notizia chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Daniele Lettig e Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi, e Paolo Cassano ha collaborato in redazione, Valentina Veneroso. Da noi tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.